Andiamo immediatamente da Giovanni, dall'Ungheria. Pronto Giovanni? Sì, pronto. Ciao, come stai? Sto bene, grazie. Grazie per essere al telefono. Ma dove ti trovi esattamente? In questo momento sono in autostrada, sto tornando in Ungheria. Ma quindi sei ancora in Italia? In questo momento sì, sono ancora in Italia. Tu sei scappato dall'Italia? Letteralmente scappato. Perché? Cosa facevi prima? Lavoravo, avevo una casa, avevo tutto, ho preso la famiglia, ho venduto la casa e sono scappato via. Ma tu sei italiano, scusami Giovanni? Io sono italiano. E perché hai scelto l'Ungheria? Ci sono capitato per caso nel 92 e dopo ho capito che là si vive meglio di qua e ho deciso di mollare tutto, basta. Dimmi cos'è che non andava qui e che cosa va là invece? E qui siamo impazziti, qua lavoriamo, lo stress, non ci sopportiamo più, rincorriamo ideali falsi. Io avevo bisogno di qualcosa che esprimesse l'umanità che sento in me e questo l'ho trovato in Ungheria, in un paese... Ma quindi fai qualcosa in particolare là per... Lavoro la terra. Cioè fai l'agricoltore? Faccio l'agricoltore, ho comprato un po' di terra con i risparmi che avevo messo via durante il lavoro. E niente. E prima cosa facevi qua in Italia? Il camionista. Ah, ok, quindi proprio due robe completamente diverse. Completamente diverse. E da quanto stai là, Giovanni, scusami? E ormai sono 16 anni. Ma quindi, scusami, anche con la lingua ormai immagino tu non abbia più problemi. Beh, è stato difficile all'inizio perché è una delle lingue più difficili, l'ungherese. Comunque sì, in questo momento ho un discreto livello di ungherese, certo. Senti, c'è qualcosa che ti manca di questo paese? Sembra ripetitivo dirlo, però ovviamente la cucina italiana è inimitabile. E dopo il clima che manca il clima, la cucina. Il clima è diverso, ma quello non mi manca. Quello che manca è che non ho mai trovato in Italia è lo spirito di patriottismo, che ho trovato invece negli ungheresi. Ok, ho capito, cioè in Italia non c'è, invece in Ungheria lo trovi. Quindi scusami, in questo momento tu ti senti più ungherese o più italiano? Ma io mi sento un ungherese, però... Mi manca la parte italiana, questo mi manca. Senti, certo. Senti, dimmi di dove eri, di dove sei in Italia? Zona di Treviso, trevigiano. Ho capito, e invece mi dici come si chiama il paese o la città dove vivi in Ungheria? Hollad, è un paese di 234 abitanti. Wow, proprio rock and roll andare a fare l'agricoltore in Ungheria in un paese di... Dietro abbiamo una delle foreste più grandi della zona del lago di Balaton. Senti, e che cosa coltivi? Scusami Giovanni, perché questa cosa... Ho dei vigneti, coltivo mais, frumento e ho un piccolo negozio di alimentari dove vendo i prodotti che io e la mia famiglia e gli amici facciamo, insomma. Senti Giovanni, scusami, poi ti lascio andare veramente tranquillo. Da un punto di vista economico, vivi meglio con quello che stai facendo là adesso in Ungheria o qua in Italia? Da un punto di vista economico? Sì. No, da un punto di vista economico, nonostante che i soldi che là siano... molto minori, però io vivo meglio là. Vivi meglio là. Giovanni, le spese sono totalmente diverse. Ti ringrazio moltissimo. Buona giornata e buon viaggio. Grazie a voi. Ciao, grazie.